Capitolo 14. La citazione. Il giorno dopo, con il suo trascorrere lento, si era spento nella sera e Anna sedeva con Ruby Gillis nel giardino dell'amica. Era stato un afoso pomeriggio d'estate. Il mondo era nel pieno splendore della fioritura. Le pigre vallate si frangiavano di nebbie sottili, i sentieri nei boschi erano coperti di ombre e i campi del viola degli astri. Anna aveva rinunciato a una gita al chiaro di luna fino alla spiaggia di White Sands per trascorrere la sera con Ruby Gillis. Aveva passato tante serate così quell'estate, sebbene si fosse chiesta spesso se giovavano a qualcuno e non poche volte fosse tornata a casa ripromettendosi di non tornare più. Ruby si faceva più pallida con il trascorrere dell'estate. Aveva rinunciato all'insegnamento a White Sands perché suo padre pensava che fosse meglio per lei cominciare con il nuovo anno. Così diceva. E il delicato lavoro di ricamo che lei tanto amava le cadeva sempre più spesso dalle mani, ormai troppo deboli per sostenerlo. Ma Ruby era sempre gaia, sempre piena di speranza, sempre chiacchierina, tutta presa dalle confidenze offerte sottovoce sui propri spasimanti, le loro rivalità e la loro disperazione. Ed era questo a rendere difficili per Anna le visite all'amica. Ciò che un tempo le era parso sciocco o divertente si era fatto raccapricciante. La morte faceva capolino attraverso quella caparbia maschera di vita. Ma Ruby le si avvinghiava ogni volta e non la lasciava andar via finché non prometteva che sarebbe tornata ancora. La signora Linde criticava continuamente le visite troppo frequenti di Anna, dichiarando che si sarebbe contagiata della tisi e persino Marilla aveva i suoi dubbi. Ogni volta che vai da Ruby ne ritorni distrutta, diceva. È così struggente, così terribile, sussurrava Anna. Ruby non sembra capire la gravità del suo male. Sento che ha bisogno di aiuto, lo chiede con tutta se stessa e io voglio darglielo, ma non posso. Per tutto il tempo che sto con lei mi sembra di assistere alla sua lotta con una forza invisibile che cerca di risucchiarla e che lei tenta di respingere con tutte le sue deboli forze residue. Ecco perché ne esco stremata. Ma quella sera Anna non avvertiva quella sensazione in modo tanto profondo. Ruby era stranamente quieta. Non disse una sola parola su ricevimenti, passeggiate romantiche, abiti e spasimanti. Rimase sull'amaca, con il lavoro intatto in grembo e uno scialle bianco stretto intorno alle esili spalle. Le sue lunghe trecce bionde, quanto le aveva invidiate Anna nei lontani giorni di scuola, le pendevano ai due lati del volto. Si era tolta le mollette, che le tenevano rialzate perché le facevano male alla testa, disse. Il rossore della malattia se n'era andato per il momento, lasciandola pallida e con un viso da bambina. La luna si alzò in un cielo d'argento, dando una luminosità di perla alle nuvole che la circondavano. Sotto lo stagno riluceva di un nebuloso splendore. Proprio ai piedi della casa dei Gillis si stagliava la chiesa con il suo antico cimitero a fianco. Il chiaro di luna si rifletteva sulle pietre candide, stagliandole contro lo sfondo degli alberi. «Com'è strano il cimitero al chiaro di luna!» disse improvvisamente Ruby. «Com'è spettrale!» mormorò. «Fra non molto anch'io giacerò tra quelle tombe. Tu e Diana e le altre vi aggirerete intorno piene di vita ed io sarò là, nel vecchio cimitero, morta!» La sorpresa colpì Anna come un pugno nello stomaco. Per alcuni secondi non poté parlare. Tu sai che è vero. Non è così? Insistette Ruby. Sì, mormorò Anna, lo so. Tutti lo sanno, disse amaramente Ruby. Io lo so da tutta l'estate, anche se non volevo ammetterlo e... Oh, Anna! Si protese a stringere d'impulso, tremante, la mano dell'amica. Non voglio morire! Ho paura di morire. Perché dovresti avere paura, Ruby? Domandò dolcemente Anna. Perché? Oh, non ho paura di andare all'inferno se è questo che pensi, Anna. Io sono credente e praticante, ma sarà tutto così diverso. Io penso e ripenso e mi viene tanta paura e nostalgia. Il paradiso, sì, deve essere bellissimo, certo, lo dice la Bibbia, ma Anna, io non voglio essere quel che non sono abituata a essere. Si insinuò nella mente di Anna il ricordo inopportuno di una buffa storia che aveva udito narrare da Philippa Gordon, la storia di un vecchio che aveva detto la stessa cosa dell'aldilà. Allora era sembrato buffo. Anna ricordava quanto lei e Priscilla ne avevano riso, quanto era diverso ora pronunciato dalle pallide labbra tremanti di Ruby. Non c'era stato nulla nella sbagliaia e frivola vita, nei suoi pallidi ideali, nelle sue piccole aspirazioni che la preparasse al grande cambiamento, nulla che facesse apparire la vita a venire diversa da quella dell'irrealtà, dell'alterità e del rifiuto. Anna si sentiva impotente, incapace di dire qualcosa che potesse davvero esserle d'aiuto, ma avrebbe potuto dire qualcosa. Io credo, Ruby, esordì esitante. Le era difficile parlare a chicchessia dei pensieri nascosti nei recessi del cuore o delle nuove idee che cominciavano appena a prendere forma nella mente intorno ai grandi misteri della vita di oggi e di sempre. Pensieri e idee che si erano andati sovrapponendo alle sue riflessioni di bambina e di cui le riusciva incredibilmente difficile parlare a Ruby. Io credo che tutti noi abbiamo delle credenze errate sul paradiso, su quello che è e quello che significa per noi. Non penso davvero che sia così differente dalla vita di quaggiù come la gente crede. Sono convinta che si continui a vivere una vita simile a quella che viviamo qui, solo che deve essere più facile essere buoni e perseguire i più alti ideali. Ogni perplessità e ogni incertezza saranno spazzate via. E noi potremo sapere e vedere con chiarezza, non avere paura, Ruby. Non posso farne a meno. Si dolse Ruby con accenti che stringevano il cuore. Anche se quel che hai detto del paradiso è vero e io non posso esserne certa perché può essere soltanto una tua fantasia, non può essere proprio lo stesso, non può esserlo. Io voglio continuare a vivere qui. Sono così giovane, Anna, non ho avuto la mia vita. Ho lottato duramente per vivere e non c'è stato verso. Devo davvero morire e lasciare tutto ciò che mi interessa. Anna si dibatteva in una pena quasi intollerabile. Non poteva mentire per confortarla, perché tutto quanto Ruby diceva era insopportabilmente vero. Lei stava lasciando tutto ciò che voleva. Aveva cercato soltanto i tesori della terra ed era vissuta soltanto per le piccole cose della vita, quelle che passano, dimenticando quelle grandi che durano in eterno, creando un ponte tra il cielo e la terra, e facendo della morte un mero passaggio dall'una all'altra dimora, dal crepuscolo all'eterna luce. Lassù il divino le avrebbe teso la mano, Anna lo sperava, e Ruby avrebbe visto, ma non c'era da meravigliarsi se la sua anima ora si aggrappava alla terra in uno smarrimento privo di luce, ancorandosi alle sole cose che aveva conosciuto e amato. Ruby si sollevò sulle braccia e alzò i begli occhi splendenti di una luce azzurra verso il cielo bagnato dalla luna. Io voglio vivere, affermò con voce tremante. Voglio vivere come le altre ragazze. Io voglio sposarmi, Anna, e avere dei bambini. Tu sai che ho sempre amato i bimbi, Anna. Non potrei dire questo a nessun altro, so che tu capisci. E poi il povero Herb, lui mi ama e io amo lui, Anna. Gli altri non hanno mai significato nulla per me, ma lui sì, io desidero essere sua moglie e dargli dei figli e vivere felice. Oh, Anna, è così dura. Ruby affondò la schiena nei cuscini che la sostenevano e prese a singhiozzare in maniera convulsa. Anna la tenne stretta per mano, patendo la sua stessa agonia, in una silenziosa comprensione che forse aiutò Ruby più di qualsiasi parola. Ben presto la fanciulla si calmò e i singhiozzi cessarono. Sono felice di essermi sfogata con te, Anna, sussurrò. Il semplice parlare mi è stato di aiuto. È tutta l'estate che volevo farlo e ogni volta che venivi volevo parlartene, ma non potevo. Mi sembrava di rendere sicura la mia morte se ti avessi confessato che sarei presto mancata o se qualcun altro ne avesse parlato o anche soltanto accennato. Non volevo davvero parlarne e nemmeno pensarci. Di giorno, quando la gente era tutta intorno a me e tutti erano allegri, non era tanto difficile tenere lontano quel pensiero, ma la notte, quando non potevo dormire, era così orribile, Anna, così orribile, non potevo togliermelo dalla testa. La morte mi veniva davanti e mi guardava in volto finché ero così terrorizzata che avrei voluto urlare. Ma tu non lo sarai mai più, vero Ruby? Tu sarai coraggiosa e ti convincerai che ciò che accadrà non ti farà male. Cercherò, mediterò su quanto mi hai detto e proverò a crederci. E tu verrai più spesso che puoi, lo farai, Anna? Sì. Non durerà a lungo, sai. Ne sono sicura. Io preferirei avere vicino te più di chiunque altro. Mi sei sempre piaciuta più di tutte le mie compagne di scuola. Tu non sei mai stata gelosa come lo erano le altre. Em White è stata qui ieri. Ricordi che io ed Em siamo state amiche intime per 3 anni durante il periodo della scuola e poi abbiamo litigato durante il concerto scolastico. Da allora non ci siamo più parlate. Non era sciocco. Ora tutto quanto mi sembra senza importanza. Ma Em e io abbiamo ricomposto la nostra lite soltanto ieri. Lei ha detto che avrebbe ripreso a parlarmi già da anni, ma che temeva che io non le avrei risposto. E pensare che io non ho mai parlato a lei, perché pensavo che lei non volesse parlarmi. Non è strano che la gente si fraintenda in questo modo, Anna? Molti problemi della vita nascono dai fraintendimenti, disse Anna. Adesso devo andare, Ruby. Si è fatto tardi e non vorrei trovarmi fuori nell'umidità della notte. Ritornerai presto? Sì, molto presto. E se c'è qualcosa che posso fare per aiutarti, dimmelo. Ne sarei felice. Lo so, ma tu mi hai già aiutata. Niente mi sembra più così terribile ora. Buonanotte, Anna. Buonanotte, Ruby. Anna si incamminò verso casa, assai lentamente, nel chiaro di luna. Quella sera aveva cambiato qualcosa in lei. La vita aveva assunto un significato diverso, un senso più profondo. In superficie tutto pareva immutato, ma la sua anima era in preda a un forte sconvolgimento. Per lei non doveva essere come per la povera Ruby. Quando fosse giunta al termine della sua vita terrena, non avrebbe dovuto guardare la vita celeste con l'orrore atterrito di chi teme qualcosa di radicalmente diverso, qualcosa davanti a cui crollano i pensieri, gli ideali e le aspirazioni. Le piccole cose della vita, buone e dolci nel posto che loro competeva, non dovevano essere gli unici scopi dell'esistenza. Solo le più alte meritavano di essere perseguite e ricercate. La vita celeste doveva avere inizio sulla terra. Quella pacificante sera nel giardino fu l'ultima. Anna non rivide più Ruby viva. La sera seguente, Lavis diede una festa in onore di Jane Andrews prima della sua partenza per il West. E mentre piedi leggeri danzavano e occhi splendenti ridevano e lingue gaie chiacchieravano, per un'anima d'Avon Lee giunse una chiamata che non poteva essere trascurata o evasa. Il mattino seguente corse di casa in casa la notizia che Ruby Gillis era morta. Era morta nella quiete del sonno, senza soffrire, e sul suo volto aleggiava un sorriso, come se, dopo tutto, la morte fosse giunta a lei in veste di amica. Un'amica che la portava dolcemente oltre la soglia, non l'orribile fantasma che aveva visto nei suoi incubi. La signora Rachel Lind, dopo il funerale, disse che Ruby Gillis era il più bel cadavere che lei avesse mai visto. La sua fragile bellezza, mentre giaceva bianca come neve tra i fiori delicati di cui Anna l'aveva contornata, fu ricordata e rievocata per molti anni ancora da Avon Lee. Ruby era sempre stata bella, ma sulla terra la sua bellezza era apparsa terrena. Aveva qualcosa di sfacciato, come se si pavoneggiasse agli occhi di coloro che la osservavano. Non aveva mai lasciato trapelare l'anima e l'intelligenza non l'aveva mai gratificata di un tocco di raffinatezza. Ma la morte l'aveva sfiorata e consacrata con il suo tocco, donandole una delicatezza e una purezza di linee che nessuno le aveva mai visto prima, regalandole tutto ciò che la vita, l'amore, la sofferenza e la femminilità sentite e gioite avrebbero potuto fare per lei negli anni a venire. Anna, posando sull'amica gli occhi velati di lacrime, pensò di averle visto il volto che il divino aveva inteso che lei avesse, e così l'avrebbe sempre ricordata. La signora Gillis chiamò Anna in una piccola stanza vuota, prima che il corteo funebre lasciasse la casa, per consegnarle un pacchettino. «Voglio che lo abbia tu!» singhiozzò. «Perché così avrebbe voluto Ruby. È il centrotavola ricamato cui stava lavorando. Non è ancora finito, l'ago è puntato, dove le sue povere ditina l'hanno abbandonato l'ultima volta che l'ha tenuto in mano, la sera prima della sua morte». «C'è sempre un lavoro incompiuto», sentenziò più tardi la signora Linde con le lacrime agli occhi, «ma c'è sempre qualcuno che lo porta a termine». «Com'è difficile rendersi conto che qualcuno che abbiamo conosciuto bene è morto davvero», disse Anna mentre rientrava con Diana. «Ruby è stata la prima delle nostre compagne di scuola ad andarsene. A una, prima o dopo, tutte quante la seguiremo». «Suppongo di sì», mormorò Diana con aria di sconforto. Non voleva toccare quell'argomento e avrebbe preferito discutere dei dettagli del funerale. La splendida bara foderata in velluto bianco che la signora Gillis aveva insistito per avere per Ruby. «Gillis devono sempre esibirsi, persino quando si tratta di un funerale», aveva commentato la signora Linde. Il viso triste di Herb Spencer, l'angoscia isterica di una delle sorelle di Ruby, ma Anna non aveva voluto parlare di queste cose. Sembrava immersa in una sorta di sogno di cui Diana sentiva, con un vago senso di abbandono, di non fare parte. Ruby Gillis era una ragazza molto divertente, interloquì Davy all'improvviso. «Chissà se in paradiso riderà tanto come ad Avonlea, Anna. Voglio saperlo». «Credo di sì», rispose Anna. «Oh, Anna», protestò Diana con una risatina nervosa. «Perché no, Diana?» domandò seria Anna. «Tu credi che non si rida mai in paradiso?» «Io non lo so», balbettò Diana confusa. «Non mi sembra proprio il posto giusto, ecco. Sai bene che ridere in chiesa viene considerato una cosa terribile». «Oh, ma il paradiso non somiglia a una chiesa». «Non sempre», replicò Anna. «Spero proprio di no», auspicò enfatico Davy. «Se lo fosse io non vorrei andarci. La chiesa è un posto noioso, noioso da morire. In ogni caso io non ho alcuna intenzione di volarmene in paradiso troppo presto. Voglio vivere 100 anni, come Thomas Blewitt di White Sands. Lui dice che ha vissuto tanto perché ha sempre masticato il tabacco, e il tabacco uccide i germi. Posso cominciare presto a masticare tabacco anch'io, Anna?» «No, Davy. Io spero che non userai mai tabacco, né per masticarlo né per fumarlo», disse Anna con aria assente. «Beh, come ti sentiresti allora se i germi mi uccidessero, eh?» domandò Davy.